gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. E benvenuti a tutti nel rotocalco che parla italiano in onda su RMI, Radio Miami International. Io sono Andy, vi sto parlando in diretta dallo studio dell'Otrepo Pavese, resteremo insieme per circa 15 minuti qua sulle poserose antenne di Radio Miami sulle onde corte. Se volete interagire con la trasmissione per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per discutere con il vostro amico Andy, ricordate tutti i nostri vari siti, www.andreamangiarotti.com, poi c'è www.voiceofitaly.it e poi abbiamo il sito della radio che ci ospita, Radio Miami, che potete accedere al loro portale dall'indirizzo www.wrmi.net. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Cari ascoltatori, oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. È sempre un piacere sapere che le nostre trasmissioni raggiungano e toccano persone un po' in ogni angolo del pianeta. Ci scrive Gianni Cardinali. Egregi signori, sono Gianni Cardinali. Con molto piacere ho avuto la possibilità, girando qua e là sulle frequenze delle onde corte, di ascoltare la vostra radio in lingua italiana. Era il 9 novembre del 2024, la trasmissione era un po' evanescente ma comprensibile. Ci ha ascoltato con una radio Texun PL660, antenna filare, sulla frequenza dei 15.770 kHz per un simpo 233-4-20-3. Gianni Cardinali da Anagni, Frosinone, Centro Italia. 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。 E poi abbiamo la seconda lettera di un nostro fedele ascoltatore che ci ascoltava dalla Cina, sempre molto gentile e carino, l'amico Ding Lun che ci sentiva per appunto dalla bellissima Cina e ci scrive: cara Radio Miami, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, è passato molto tempo, come state? Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano, erano le ore 01.15 sino alle 01.30 UTC sulla frequenza dei 5.850 kHz. Il segnale era molto forte e l'effetto di ascolto molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, se ci sono souvenir dalla radio e così via. Il mio rapporto porto di ricezione, ascolto 6 novembre 2024 dalle ore 01:15 sino alle 01:30 UTC, frequenza dai 5850 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Era l'amico Ding Lung che appunto ci scriveva: mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero di ricevere la cartolina QSL cartacea. Noi abbiamo già inviato la cartolina al nostro caro amico cinese. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. E poi abbiamo una terza lettera di un nostro amico, egregi signori, ieri sera è stato con grande piacere che ho ascoltato le trasmissioni di Radio Miami e in particolare del programma I Love Italy, sulla frequenza appunto di WRMI. Vi invio questo rapporto d'ascolto, sarei felice di ricevere la vostra QSL via posta o email. È stato molto bello sentire l'annuncio in francese perché io abito in Francia, mi chiamo Christian Gibaudo, vivo in un piccolo paese francese molto vicino al confine con il Piemonte. Del resto dovete sapere che il mio paese, che si chiama Tenda in italiano, in francese non so come possa essere Tenda, forse in italiano è Tenda, è stata terra italiana fino a settembre del 1947. Quindi questo nostro amico francese, infatti noi italiani spesso volentieri i francesi li chiamiamo i nostri cugini francesi, perché con loro abbiamo condiviso tanto, non solo magari per quanto concerne la vicinanza di confine, ma anche la storia. Abbiamo condiviso veramente tanto con i francesi. Salutiamo il nostro amico Christian Gibaudo da Tende in Francia e questo è il suo rapporto di ricezione. Ascolto sabato 9 novembre 2024, ora 20:45 UTC, che corrispondono alle 21:45 ore italiana, sulla frequenza dei 15.770 kHz, qualità di ricezione con codice SIMPO 35543. Dettagli del programma, trasmissione in italiano, poi ha riportato un po' quello che io ho detto e niente, grazie ancora caro amico Christian, abbiamo spedito anche a te la nostra QSL ufficiale. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. E abbiamo un'altra lettera molto molto gradita. Buongiorno, mi chiamo Francesco Cecconi, ho 66 anni e sono un ex dipendente delle Poste Italiane, recentemente andato in pensione. Vivo nella piccola e antica cittadina di Anagni, situata a 60 km sud da Roma. Per molti anni mi sono anche occupato della sezione news di una radio locale della mia città. La radio è il mio principale interesse extra lavorativo e l'ascolto della radio è una delle mie attività creative preferite. Gestisco un piccolo blog che si occupa di radio e media e ascolto internazionale. Poi ci dà anche l'indirizzo del suo blog che trovate su Blogspot. L'indirizzo è svli05639fr.blogspot.com. www.radiohot.com. Prediligo lo sconto delle radio vecchio stile, quelle analogiche, sulle onde lunghe, medie e corte. E ho anche una piccola collezione di souvenir dedicati alla radio, tra cui le conferme QSL delle stazioni ascoltate. Mi piace collezionare queste conferme che, grazie alla disponibilità del personale delle stazioni contattate, mi vengono inviate sia via mail che per posta ordinaria. Avendo avuto il piacere di ricevere le vostre trasmissioni e sperando di farvi un favore e di non arrecarvi troppo disturbo, ma ci mancherebbe, caro Francesco, è un immenso piacere. Vi invio il mio rapporto di ascolto che spero prenderete in considerazione per la conferma della QSL, se disponibile. Ma assolutamente, gentile Francesco, è disponibile, l'abbiamo già inviata. Un saluto a Francesco Cecconi con il suo codice SWL 10-5639 a Nagni, Italia. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, colgo l'occasione per inviarvi i miei migliori auguri per il vostro importante lavoro. Francesco Cecconi a Nagni. E ora vediamo i dati d'ascolto che ci ha inviato, tra l'altro con una bellissima cartolina, I Love Italy, ascolto del 2 novembre 2024, ore 20:55, frequenza del 15.770 kHz per un Simpo 35333. Bellissima cartolina con lo sfondo appunto del suo paese, questo bellissimo paese a Nagni in provincia di Frosinone, vicino a Roma. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. Cari ascoltatori, per finire questa trasmissione vi voglio portare in un viaggio tra tradizione e spiritualità, unendo una meravigliosa usanza abruzzese, al racconto che da secoli illumina il Natale. Siamo a dicembre, quindi vi colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon Natale e un sereno anno nuovo a tutti voi e al nostro caro Jeff White. Ma vediamo che cos'è questo aneddoto abruzzese. Iniziamo con una tradizione davvero speciale, tramandata nel cuore dell'Abruzzo. Fino a qualche decennio fa i bambini dell'Abruzzo non scrivevano lettere a Babbo Natale come avviene nel resto del mondo, ma bensì a Bambin Gesù, e in queste lettere non chiedevano giocattoli o regali, ma esprimevano desideri profondamente legati alla loro vita quotidiana, la salute dei genitori, la pace nei momenti difficili o semplicemente un raccolto abbondante per le famiglie, perché erano famiglie appunto di campagna. Immaginate un bambino che con le mani tremanti scrive una preghiera al bambinello, non solo un atto di fede ma un gesto di speranza, un piccolo ponte tra il cielo e la terra. E ora, come non ricordare il racconto che il cuore stesso del Natale, il racconto proprio della nascita del bambino Gesù. Vi leggo un passo del Vangelo di Luca molto bello, capitolo 2, versetti 1 e 20, che ci riporta nella notte santa, la notte di luce e di speranza, perché entra nel mondo il nostro Salvatore. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, e è Cristo Gesù. E poi continua appunto la descrizione del Vangelo di questa notte meravigliosa, fatta di semplicità e di grandezza, quando i pastori e gli angeli si incontrano per celebrare un evento che avrebbe cambiato il mondo. È una storia che non smette mai di emozionare, di insegnarci il valore della speranza e della pace e dell'amore, che non è il valore del potere dei soldi, ma è il valore delle piccole cose. Riscoprire la gioia del Natale, non un Natale consumistico, ma bensì un Natale povero, come il bambino Gesù nella sua mangiatoia, col bue e l'asinello, mamma e papà. E in conclusione, cosa potremmo dire? Che questa lettera è piena veramente di preghiera, un canto di gioia davanti alla mangiatoia. Immaginate questa bella mangiatoia, un po' povera ma al tempo stesso molto ricca. Il Natale ci invita a rallentare, a riflettere e a riconnetterci un po' con le cose essenziali, ed è questo, spero, che vogliate portare nel cuore per questo Santo Natale. A tutti voi un augurio speciale di Buon Natale e sereno anno nuovo da Andy da I Love Italy. Un abbraccio e un augurio sereno anche al nostro caro Jeff White, a tutta la sua famiglia, a tutto lo staff di RMI. Buon Natale e buon anno a tutti. Ciao dall'Italia, ciao da Andrea. Buon Natale. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com